24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese. I bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo, elettori, il bagno alla turca. Se vorrete fare un bel pennaccio, io ve lo dico, se volete fate un pennaccio. Alfonso Maria di Sant'Agata de Renzi. Vabbè, l'hanno accolto così gli esponenti del Movimento 5 Stelle, il pernacchione per Matteo Renzi. Oh, cari italiani, sono le 6:31 minuti. E sembrava tutto fatto nel weekend, quando ci siamo lasciati venerdì. E invece, ci vorranno un po' di giorni. Oggi Matteo Renzi alle 10:30 andrà al Quirinale da Giorgio Napolitano. Riceverà molto presumibilmente l'incarico per fare il nuovo governo. Ma è bloccato da Alfano! Ci rendiamo conto, è bloccato dalla melina, gergo calcistico, cioè perdere tempo, di Alfano, che sta facendo la voce grossa. Questo il riassunto della situazione attuale, ma lo voglio chiedere, lo vorrò chiedere ai nostri ospiti. Questo è 24 mattino e possiamo aprire il Parlamento, sì. Salutando Miriam Lucchetti in redazione. Il caffè volentieri a tutti quanti. Questa è sempre Nicole Minetti che ci offre il caffè. Lo dico per uno dei miei ospiti che già sta all'ascolto. È Nicole Minetti che ci offre il caffè. E saluto il nostro alpino Peter Bescapè in regia, perché è venuto a ritrovarci. E sono molto contento. Antonio Di Pietro, sempre sveglio a quest'ora. Antonio. Ci mancherebbe altro. Da buon contadino ci si sveglia presto la mattina, perché bisogna dare da mangiare agli animali. Quali animali? Che animali c'è? Che animali? Quelli veri. Ah, gli animali, le bestie, proprio le bestie. Cioè. No, mi riferisco alla mucca, alle pecore, al cavallo. Ah, vabbè, queste cose qua. No, non pensavo al Parlamento in questo momento. Ah, non pensavo, in questo momento no. Allora, mi faccia salutare Marione Adinolfi, anche oggi abbiamo ricostruito questa accoppiata. Marione, eccoci, buongiorno. Eccoci qua, buongiorno, anch'io do da mangiare gli animali, già me stesso subito. Che subito, ti sei svegliato. Allora, diciamo subito che la nostra amica Vladimir Luxur è stata liberata nella notte a Sochi. Noi abbiamo anche il cellulare, dopo magari proviamo a chiamarla, chissà se... Mario, hai visto che t'ha combinato Vladimir Luxur? Vabbè, uno spottone fatto bene per lui stesso, brava, l'ha organizzato. E ho capito, brava. Ma lì l'hanno presa i russi, se poi dopo si arrabbiavano, la tenevano... Un paio di giorni in prigione, insomma, non sono tenerissimi. Vabbè, comunque è data. Allora, caro Di Pietro, lei si aspettava un Renzi già in sella in questo momento, oppure un Renzi già in sella, già proprio pronto a comandare? Io personalmente sono dell'idea che chi mandare in sella, rappresentarci, devono essere i cittadini e non questo così scambio di poltrone tra Renzi, Letta e compagnia bella, di cui non ho capito la ragione, perché in democrazia si usa che siano i cittadini a scegliere chi mandare al governo, chi mandare all'opposizione, chi mandare in Parlamento. Noi qui da un po' di anni invece mi pare che tu scegli una cosa ma si fa tutt'altra cosa, basta cambia casacca dalla mattina alla sera, siamo a posto. È tutto a posto così. Effettivamente oggi ho letto questa cosa sul Toto Ministri. L'ipotesi è, caro Mario, senti bene, l'ipotesi è tentare di convincere Letta a fare il ministro dell'economia. Allora mettevamo Renzi all'economia e stavamo a posto, cioè, senza fare sto casino, no? Te pare facile, Milan. Un cannibale, Matteo Renzi, che io conosco un po', diciamo così, da tanti anni, ha le sue caratteristiche. Il giorno in cui Matteo Renzi ha detto mi candido segretario del PD, tutto il PD sapeva bene che quella candidatura è una candidatura non al largo del Nazareno, Renzi non gli è mai fregato niente, ma una candidatura a Palazzo Chigi, allora è tutta la tarantella Io non credo che la politica sia fatta da ingenui, insomma, non mi pare che questo sia stato un esito sorprendente. No, infatti, sei cannibalizzato tutto. Di Pietro, ma come lo vede Renzi? Cioè, uno come lo descriverebbe, no? Che va in giro in smart, va veloce Renzi. Renzi è un ottimo venditore. Adesso che cosa vende lo devo ancora capire. Possono essere tarallucce vino, può essere una bella bistecca. Per il momento vende bene se quel che vende è produzione propria e produzione altrui, e soprattutto se è un buon prodotto, se è un da buon calderino, sto parlando di se invece è un prodotto così coltivato per gonfiarlo e soltanto per farlo vedere bello all'esterno, ma dentro né zuppo né pampagnato. Questo si vedrà. Ma cos'è? Diamo l'Italia, diamo il paese a uno che si vende bene, cioè questo è il concetto. Signor sì. Capita di Norfi, vediamo. Cioè, perché poi la politica è questa, no? Le promesse di fare bene. E poi uno la politica è una corsa tra rapporti di forza. È sempre stata così. Non è una novità questa. L'incarico a Renzi non nasce da una tradizione in cui in Italia abbiamo sempre votato il leader è stato messo a Palazzo Chigi. Questa cosa è successa sostanzialmente per una sola persona, che si chiama Silvio Berlusconi, che ha preso i voti e è andato a Palazzo Chigi. Poi una volta è successo anche a Romano Prodi, ma una volta sola, nel 96, perché quando vinse nel 2006 Prodi in realtà aveva preso 500.000 voti in meno al Senato, infatti il Senato non riuscì a governarlo e dopo 2 anni stavamo di nuovo alle elezioni. Quindi della tradizione italiana, repubblicana e non, sì, non c'è mai stata il voto al Presidente del Consiglio, non è una cosa che c'è. Questa cosa succede secondo meccanismi di rapporti di forza storicamente assolutamente tradizionali in Italia. Dobbiamo augurarci che Renzi sia bravo. Sì. Io credo che sia meglio di Letta, se devo essere franco, non è che 20 giorni fa parlavamo del governo di Nembo Kid, mi pare, sì, no, cioè, chiaro, era un governo ricchio così che stava lì e tutti gli davamo 3 palle. Sì, ma quello che dice Di Pietro, non va bene un governo, si vada a votare, questo è il concetto. Però tu dici, ma non siamo mai andati a votare, non abbiamo mai scelto niente. Che siamo? Non è una buona ragione. Quando hanno scelto Silvio Berlusconi, francamente non è una cosa che è andata benissimo, neanche a Di Pietro. Insomma. Di Pietro, non lo so, voleva, perché sai che se si va a votare Berlusconi è convinto di vincere. Ma guarda, io rispetto la volontà dei cittadini. Però questa idea che ci hanno cambiato la legge elettorale, ci hanno detto che è illegittimo, che quindi quel che sta in Parlamento sono stati eletti in un modo illegittimo, non c'è più una maggioranza che non governa, io non capisco perché non è stato stabilito di andare a votare. Questa idea che non si debba chiedere ai cittadini da chi essere rappresentati e chi volere in Parlamento e al governo, a me pare che sia un furto della democrazia. Ecco perché io ritengo, io non condivido, con tutto il rispetto che devo dare, per l'amore di Dio, per l'età della persona, ma non condivido questa scelta del Capo dello Stato di tenere in piedi questo governo, questa maggioranza, soltanto perché non si vuole andare a votare. Perché? È una sciocchezza, andare a votare è una sciocchezza, questo ha detto la politica. È una sciocchezza, la Costituzione ci dice che è un atto di democrazia, ma non lo dice la Costituzione italiana. Sì, no, ma dice in questo momento, evidentemente, Napolitano dice in questo momento è una sciocchezza. Ma allora c'è il Toto Ministri, caro Mario, io mi sono è la cosa che leggo con maggiore attenzione, no? Vedere tutte queste faccine, queste foto, sì, è bellissimo le foto, le faccine, sale la Raiklin e scende Barca, sale Padoan è stabile. Ma perché non c'è niente da leggere? Sono foto, sono foto con didascalie. Guardo le figurine, no? Però ammetto che mi sono arreso e mi sono ritirato quando ho visto Gino Strada ministro. Oggi sul Corriere ho visto Gino Strada, ho detto no, Gino Strada poi entra sempre, caro Mario. Sicuro il Presidente della Repubblica doveva fare. Parliamo di cose serie, insomma, no, siccome questa cosa di... Ho capito, ma ci sono paginate sui giornali, sono proprio i classici riempitivi quando non sai che cavolo mettere. E oltretutto, siccome sanno che quelli come Milan guardano più le figure che leggersi i testi, lo riempiono apposta. Fammi dire una cosa su questa storia. Cioè, Napolitano, quando ha una maggioranza in Parlamento che può esprimere un governo, non può mandare il paese alle elezioni. Il lavoro di Napolitano è verificare se c'è una maggioranza in Parlamento, finché la nostra Costituzione prevede un regime parlamentare, e se la maggioranza è capace di esprimere un governo non può chiamare le urne, perché c'è una maggioranza in Parlamento. E Di Pietro me lo insegna, noi siamo in un regime parlamentare e finché c'è questo fa molto chic dire dobbiamo andare alle urne e restituire la parola al popolo, ma c'è una maggioranza e la Costituzione impone al Presidente della Repubblica di verificare se c'è una maggioranza in Parlamento. Insomma, quindi addirittura dici è obbligato, è obbligato, caro Di Pietro, è obbligato questo. No, scusate, adesso per l'amore di Dio. Con una legge elettorale in cui chi sta in Parlamento non ci è andato in meriti propri, ma ci è andato perché qualcuno ce l'ha messo al primo posto, al secondo posto, al terzo posto, si chiama Porcellum. La maggior parte di quelli che stanno in Parlamento accendono tutte le mattine, un c'era Sant'Antonio, come si chiama Napolitano, non mi ricordo manco più. San Giorgio. Accendono un cero perché si trovano lì e non sanno manco perché. Quindi questa idea che dice devo chiedere al Parlamento che se ne devono andare a casa, ma l'avete visto all'ultima legislatura 159 parlamentari hanno cambiato casacca. Quindi quando il nostro legislatore fece la Costituzione a suo tempo, lo fece per dare la libertà di voto. Adesso invece se lo comprano, se lo vendono, passano da una parte all'altra. È diventato un mereticcio, è diventato lì dentro, pur di restare attaccato dove stanno. Quindi questa idea che fino a quando non si cambia una legge elettorale, che uno può fare quel che gli pare pur di rimanere attaccati 5 anni là, a me pare il mestiere più vecchio del mondo. Ha capito Maria Di Nolfi, c'è il meretricio in Parlamento. Questa è una valutazione, diciamo, morale su cui possiamo discutere e che mi trova parzialmente d'accordo, ma rispetto all'ordinamento costituzionale dello Stato, la procedura prevista dagli articoli 87 e seguenti della Costituzione prevede che il Presidente della Repubblica verifichi la condizione della possibilità di avere una maggioranza nelle Camere. Questa cosa è un dovere costituzionale del Presidente. Mi meraviglia che Di Pietro, sempre molto attento giustamente alle norme, mi dica come sono mignotte. Ha detto meretricio. Siamo precisi. È il trasformismo di De Pretis che funziona così. Allora, intanto Di Pietro, ma che ci ha fatto l'altra volta? Lunedì l'abbiamo chiamata, martedì l'abbiamo trovata in aula vestito come un avvocato. A parte che Razzi, il suo amico Razzi, non capisce la differenza tra avvocato e magistrato. Ha detto, me lo ritrovo magistrato. Ha detto, guardi che avvocato, vabbè, io non capisco queste cose. Ha detto, vabbè. Mi ci ritrovo pure oggi, perché oggi pure a Napoli andiamo a ridiscutere anche oggi fa l'avvocato di parte civile il processo. Andiamo a discutere di questo tema per cui, no, ma solo se ci riflette, no? Che cosa sta succedendo da un po' di anni a questa parte, cioè, il popolo elegge una maggioranza, ti mancano 2-3 numeri, allora tu vai lì e lo paghi, lo corrompi, un giuda qualsiasi che spendeva almeno una volta per 30 denari, adesso pure 3 milioni di euro ci voglio, non so se il costo è uguale. E che cazzo di democrazia è questa? Se tu devi affidare il paese a uno che corrompe un parlamentare per avere la maggioranza. Vediamo, non diamo giudizio prima. Se scrivere il codice, lo chiamerei omicidio politico, perché è un omicidio della democrazia, è un omicidio. Dopodiché non riguarda solo quel processo che si sta facendo a Napoli, io stesso ho fatto più denunce di questo caso, perché da un po' di anni a questa parte ci sono un sacco di persone che passano da una parte all'altra. Razzi, sai cosa ha detto quando gli hanno risposto, perché l'hai fatto? E potevo mica rimanere senza stipendio, io ormai ero tornato in Italia, cioè lui che cavolo sta, l'idea del servizio, l'idea del rappresentante, eppure era un operaio che faceva da 40 anni. Ma magari l'ha fatto perché purtroppo, piuttosto di andare a votare, nessuno l'avrebbe ricandidato, almeno così avrà appunto la pensione. Voglio dire, quando bisogna prendere le persone dalla società civile, quello era una persona della società civile che lavorava nella sua fabbrica, una brava persona indubbiamente, ma possibile che appena si si diventa politica, la prima cosa che si impara è di come fregare il prossimo. Che dobbiamo dire? Questo è. Però ripartiamo da qui, da questo processo, perché voglio capirci anche qualcosa di più. Adinolfi, l'hai vista a fianco a Ghedini? Come chiacchierava con Ghedini nelle foto, almeno nelle immagini. È una persona simpaticissima, quindi dal punto di vista umano riesce a tenere buoni rapporti con qualsiasi persona. E poi vi faccio sentire tra un attimo Alfano. Ma che è successo Alfano? Mamma mia, il quid ha mostrato, no? Che quid Alfano ieri, 24 mattino. Buongiorno, io vorrei fare un appello a tutti gli italiani. Penso che sia arrivato veramente il momento di scendere in piazza, ma non democraticamente, cioè in maniera dura, perché ci hanno levato anche il diritto del voto, il terzo governo che nasce senza che il popolo vada a votare. Ma questo è proprio uno scandalo, è proprio uno scandalo. Ma qual è democrazia? La democrazia significa essere liberi di andare a votare, invece questa è dittatura. Scendiamo in piazza, basta, facciamo una finita e vedremo come andrà a finire. Penso, assemo lavorare il toso, che tanto peggio deletta non può mia far. Ciao Alessandro. Ciao Milan, no, non sono arrabbiato. Oggi sono molto ottimista, sinceramente. Da 2 anni non avevo questo ottimismo politico. Io sono un berlusconiano nel DNA, ma sinceramente Renzi ho visto fin dalle primarie qualcosa di diverso. Di politicamente entusiasmante. Scusami Berlusca. Caro Milan, finalmente Renzi ha varato la legge elettorale, si è autoeletto Presidente del Consiglio e intanto la gente in Italia continua ad impiccarsi. Io vorrei che facessero qualcosa anche per il popolo, non soltanto per loro. Allora, siamo tutti arrabbiati, non ne possiamo più. Invece di perdere tempo, andiamo a votare subito, per favore. Niente, non cambia assolutamente niente. Avremo ancora le larghe intese con i soliti personaggi che vogliamo mandare via. E quindi andiamo a votare, per favore. Vinceranno i grillini, ben vengano. E vabbè, questa signora la pensa così. Siamo con Antonio Di Pietro e Mario Adinolfi. Caro Mario, hai qualcosa da dire? No, andare in piazza. Ma oggi hai cominciato e chiuso con 2 geni, ho visto, sempre le stesse scelte, insomma. Mamma mia, ma chi non chiama mai uno che ragiona, che conosce le leggi, no? Sempre quelli che devono scendere in piazza, andiamo. Col congiuntivo sbagliato, ovviamente, capre, sì. Adesso basta, stanchi, vogliamo scendere in piazza, facciamo la rivoluzione. I forconi, hai visto i forconi? Sono diventati 57, 75, capito? Sono la rivoluzione. Hai finito di trattare non alimentare l'idiozia, Milan. Il mio pubblico di idioti. No, smettila. Vabbè, vai, non te lo mettiamo più. Meno male che non li portiamo a votare. Meno male, combinano questi. Abbiamo votato 1 anno fa, li vogliamo fare 3 mesi, ma che volete? Allora, caro Di Pietro, le faccio sentire che effetto le fa prima di sentire Alfano che se le danno di santa ragione tra Alfano e Berlusconi? Che effetto le fa? Voglio dire, ognuno fa il suo gioco, perché quel che non condivido è l'idea, io con tutti Alfano e Berlusconi, a me quel che preoccupa è quel che ha fatto Renzi invece, che ha preso Berlusconi, l'ha riabilitato, l'ha rimesso in gioco, quando in realtà la sua strada politica doveva essere finita in quanto buttato fuori dal Parlamento perché pregiudicato. E lui va lì e si dice no, bisogna discuterci con Berlusconi, bisogna trovare un accordo con lui, bisogna mettersi a fare legge, addirittura a riformare la Costituzione insieme a Berlusconi. Ma c'ha i voti, c'è il consiglio, è il capo del partito, cosa deve fare? Il capo del partito è una cosa, ma voglio dire, il capo del partito fa il capo del partito e non ce ne frega assolutamente niente, chi lo vota avrà il suo diritto a votarlo. L'altra cosa invece è che per fare una legge elettorale, invece di parlare col capo del presidente del gruppo, sì, in Senato, sì, alla Camera, perché quelli sono i rappresentanti formali, si è messo lì. Una cosa è rispettare un partito, altre cose fare lingua in bocca, sì, come stanno facendo loro. Fare lingua in bocca, addirittura Renzi e Berlusconi, che immagine, Adinolfi! Fanno sì. L'immagine siamo... è terribile, sono le 6.50. Abbia pazienza. Ma che cosa fa, poverino? Ma lì che parlava con Brunetta, perché tanto decide faceva, Brunetta? O faceva, faceva lingua in bocca. Gli hanno fatto dire che votava la fiducia, tre minuti dopo gli hanno detto che guarda, è cambiata l'idea. Ah, cioè, sì, parli solo con Berlusconi. Certo che però anche lingua in bocca Renzi Brunetta, anche questa non è un'immagine che ci pacifica. Meglio che fai direttamente con chi almeno non ce l'ha. Esatto, esatto. sentiamo Alfano. In Sardegna un presidente Silvio Berlusconi irriconoscibile ai miei occhi, perché la rabbia e il rancore non sono mai stati connotati caratterizzanti il carattere del Silvio Berlusconi che abbiamo tutti noi conosciuto. Silvio Berlusconi in questi anni si è circondato da troppi idioti inutili. Idioti inutili! Da troppi inutili idioti! Marione! Senti, non gli par vero gli applausi e lo ripete e dice sì, mi si sta caricandolo. Sì, è un caso psichiatrico. Come fai? Qui c'è tipo, c'è tutto. No, la Biancofiore oggi sulla stampa ha detto lui che ha scodinzolato più di Dudù davanti a Berlusconi, ora parla di... Vabbè, insomma, volano gli strati. Non è sempre, esatto, una cuba di pensiero, però stavolta poi ci prende, dai. Sì, però qua volano gli stracci, questa è la questione, volano gli stracci. Come mai un Alfano, secondo te, fa questa uscita? No, ha tirato fuori, non so, Berlusconi pare che abbia detto, e dire che lui era l'unico che si alzava in piedi tutte le volte che entrava in una stanza, come se fosse il primo giorno. Alfano ha una questione, ha ragione Di Pietro. Alfano non ama il lingua in bocca, diciamo così, è geloso, la chiamerei crisi di gelosia. Ecco, perché ha capito che la vera assicurazione sul governo Renzi non la sta dando lui, che lui pensa di essere decisivo a questa operazione, la sta dando Berlusconi tramite Verdì. Questo è quello che sta accadendo in realtà. Lui sa bene che potrà giocare quanto vuole a far finta di essere decisivo con la sua pattuglia di parlamentari, ma se dovesse dirazzare, i voti decisivi arriveranno da Forza Italia, questo sarà l'elemento è geloso, è geloso. Politicamente gli è politicamente chiaro che Berlusconi gliel'ha fatta un'altra volta. Ecco, caro, ma come, qua sembra che tutto è in la melina del nuovo centrodestra di Alfano. Ma chi se ne fa? Tu veramente credi che se questo governo non nasce perché Alfano dice no, fammi capire. Veramente ci credi a sto e storico? Sono lì al toto ministri, sì, io, capisci? Sto a guardarle le faccette. Di Pietro, insomma, qua oggi che dirà, che succede oggi a Napoli, ovviamente il processo per il quale lei... Sì. A Napoli succederà che oggi individueremo quali testi dovranno ammettere, sicuramente ci sarà ancora una volta una miriade di eccezioni che la difesa di Berlusconi porterà avanti legittimamente. Dobbiamo fare una spiegazione. Sul piano tecnico, per l'amor di Dio, va rispettato tutte le difese, eccetera, eccetera. Però mi pare che qualcuno... pure Manzona parla di azzeccagarbugli e quant'altro, non mi sto rivolgendo a chi dice, sto rivolgendo proprio alla volontà di Berlusconi. Perché secondo te, secondo chi ci ascolta, in questi processi si discute di mille questioni a cui ci si attacca? L'altra volta noi siamo stati a discutere se la notifica a Silvio Berlusconi per dirgli il giorno che iniziava il processo, lui c'ha i giornali, era valida. Ma sai perché? Perché secondo Berlusconi Arcore non è la sua dimora abituale. È un gran classico l'errore di notifica per far saltare. Ma non è una questione di errore di notifica, ma Arcore, che lo sanno pure le donnine, ma pure Dudu lo sa che Arcore ci va ogni sera che ci abita Berlusconi. E allora, il problema qual è? tira a campare, salta oggi, salta domani. Ma come tutti, ma tutti gli avvocati fanno così, gli errori di notifica, si appellano le cose. Ma io non ce l'ho con l'avvocato, fanno bene gli avvocati. Io sto dicendo sistema, uno che sistema. Vuole essere il padre della patria, uno che vuole governare il nostro paese, uno che si presenta per salvare e mettersi a disposizione del popolo, che cosa fa? Gioca come qualsiasi ladrungolo di mele per aspettare che il tempo passi all'imprescrizione. Ma qual è la forza morale di questa persona? Io non parlo dall'avvocato, quindi parlo loro. Parlo della di forza morale. Dovrebbe farci sapere che lui è una persona innocente per bene, non che una persona che utilizza le regole del gioco per fregare e per fottere. Vabbè, ma senta, ma Ghedini che gli ha detto in una pausa? Cioè, vi scambiate anche delle battute? È vero che è simpatico, Ghedini? Beh, Ghedini non è antipatico, nel senso che bisogna essere qualcosa. Ma Ghedini, con lui ho parlato soltanto di regole di articoli di codice. Torno a ripetere, io con Ghedini non ho nulla né da spartire né da contrastare. Ghedini fa il suo lavoro, ma il cliente dà le indicazioni. Sì. Se il cliente dice fai in modo che sto processo non salta a fare, quello segue le regole del cliente. Non so da ma fare. Io però io dico. A me cittadino a cui devo affidare le sorti del mio paese, una persona vorrei sapere sa chi lo sto affidando, la persona è un delinquente. Lo sto affidando adesso a una persona che si affaccia tutti i giorni da Arcore per dire vedete qua, io non abito qua. Tatticismi. Caro Di Pietro, la ringrazio per essere stato con noi, così come Mariola Dinolfi. Allora Mariola, vado a studiarmi altre figurine, c'è Gino Strada, su Gino Strada però devo dire. Ma anche oggi fai calcio, Radio Yes? Lunedì sempre calcio. Sempre calcio, anche oggi, mamma mia, manco col governo Renzi. Vabbè, alle 8 su Radio Yes parla di calcio Mariola Dinolfi. Grazie, alla prossima. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Siamo qua, sono le 7 e 16 minuti, cari italiani, cari ascoltatori, non l'ho detto prima ma lo dico adesso, inizia la 42esima settimana decisiva per la riforma elettorale, proprio oggi, nonché la 42esima settimana decisiva per l'abolizione delle province, dai che è quella giusta, dai che ce la facciamo italiani, dai, forse è quella giusta, mi sa di no. Però noi non demordiamo e continuiamo a contare, continuiamo ad andare avanti. Allora oggi parleremo di questa politica, giorni frenetici, alle 10.30 Matteo Renzi va da Giorgio Napolitano al Quirinale per presumibilmente ricevere l'incarico per formare il nuovo governo, ce la farà, pare che ci sia un rallentamento. Il nuovo centrodestra con Alfano che chiede poltrone, che chiede un accordo, che insomma vuole rallentare un po'. E vabbè, un gran classico, ma Renzi, Turbo Renzi, ormai viene chiamato così, abituato ad andare veloce, invece vuole accelerare. I giornali si cimentano ovviamente di tutte le paginate del chiacchiericcio anche col Toto Ministri di quello che sta per succedere al cambio di governo in Italia. Intanto andiamo a sfogliarli. Noi ovviamente parleremo di questo anche alle 8.15 con gli ospiti che sono Massimo Cacciari, Udo Gumpel, giornalista tedesco, Simona Bonafede del Partito Democratico, e probabilmente riusciamo a avere in treno, ma ce la faremo. Ci crediamo, anche Flavio Zanonato, ministro dello sviluppo economico in uscita. Questo alle 8.15, giornale. In questo lunedì 17 febbraio, intanto i titoli, il Sole 24 Ore, l'edizione del lunedì, un'edizione fresca con le notizie di ieri. Italia, l'Unione Europea, 3 miliardi di tagli, questo è il titolo principale, ma anche, sempre in prima pagina, braccio di ferro Renzi-Alfano, oggi l'incarico

non vince per l'articolo più inutile scovato oggi sui giornali, oggi c'è una concorrenza spietata, ma vince il mio amico Mario Aiello sul Messaggero, che per tre quarti di pagina intervista chi? Intervista la compagna di classe di Matteo Renzi, Letizia Manni, la compagna di classe del Bomba. Il Bomba, no, così ieri Aldo Cazzullo ha detto che lo chiamavano il Bomba perché si inventava delle balle clamorose, no, il Bomba, sì, così. Allora, Letizia Manni, la compagna al liceo Dante che racconta quella gita di terza a Budapest con Matteo Renzi, chissà se limonavano in fondo all'autobus, e racconta come coi professori li tirava scemi cambiando discorso e portandolo dove voleva lui, insomma. Ma chi se ne frega della compagna di classe che racconta le gite di Renzi e dice non era un secchione, era un secchione, era bravo, era bravino e si comportava bene. Mamma mia, il Messaggero, la carta costa. Dai, andiamo al giornale radio, va, che è meglio. 24 mattino. Allora, cari italiani, alle 8:17 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Che succede oggi alle 10:30? Matteo Renzi va da Giorgio Napolitano al Quirinale, riceverà quasi certamente l'incarico di fare il governo, e poi a quel momento sarà probabilmente una battaglia, credo, tra la sua proverbiale velocità, voglia di fare, voglia di mettersi in gioco, e i tempi, i ritmi, i rituali dei partiti, delle consultazioni, delle telefonate, di chi chiede riflessioni, valutazioni, incontri, in sostanza chiede posti e poltrone e ministeri. Sta di fatto che i giornali ci raccontano oggi come la proverbiale velocità di Renzi abbia già subito un freno, un rallentamento. Per Renzi arrivano anche i primi no, la difficoltà a comporre la squadra di governo. Insomma, ci vorrà tempo, forse una settimana, dopo che ci sarà l'incarico. E però ci vogliamo chiedere anche oggi, ma cosa cambia davvero per l'Italia? E poi avete capito davvero il senso di questo cambio di passo? Intanto lo facciamo chiedendolo a Massimo Cacciari, che saluto. Buongiorno professor Cacciari, eccoci qua. Buongiorno. E voglio salutare con lei anche Udo Gumpel, che è corrispondente in Italia per la TV tedesca NTV. Buongiorno Gumpel e benvenuto. Buongiorno. Allora, intanto Cacciari, ha capito bene in questi giorni, magari ha meditato un po', che cosa è successo in Italia? Beh, non mi pare che ci sia pochissimo da meditare. È successo che una personalità politica certamente diversa come storia, come carattere rispetto all'animale politico tradizionali di questo paese, molto votato al compromesso, alla mediazione, eccetera, eccetera, ha stravinto delle primarie finte, perché erano delle primarie per la premiership e non per la segreteria di un partito, ha una maggioranza solida dietro di sé e nella direzione di questo stesso partito, e ha voluto mettersi immediatamente in gioco, ma è inevitabile che sia così, perché lui capiva benissimo che attendere chissà che un anno, più di un anno, prima di una competizione elettorale, probabilmente l'avrebbe messo totalmente ai margini dell'attenzione politica, e quindi ha rischiato tutto. E questo è una dote di un politico, certamente. La capacità di mettersi in gioco, la capacità di arrischiare, eccetera, eccetera, sono doti di un capo politico. Non possono essere le uniche, e quindi siamo qui tutti che speriamo che faccia qualcosa. Ne abbia anche le altre virtù politiche, che sono quelle di governare, che sono quelle di avere delle idee serie, non semplicemente degli slogan per quanto riguarda i temi delle riforme, che abbia dei rapporti solidi, tra l'altro dobbiamo sperare anche questo, che abbia dei rapporti solidi con i poteri, con i cosiddetti poteri forti, le imprese, le banche, perché non si governa in un paese democratico oggi se non sei anche una personalità autorevole nei confronti di questi poteri non democratici per definizione. Che abbia una statura europea, anche questo dobbiamo sperare che ce l'abbia, perché è chiaro che se Renzi pensa di andare in Europa e parlare così con quella retorica da Boy Scout alle autorità europee, siamo fritti. Cioè siamo qui che non possiamo altro che sperare che Renzi sia, oltre che un rottamatore, anche un governatore. Ma secondo lei lo capiscono anche gli italiani? Cioè hanno capito questo passo? Uno vince le primarie e poi, come dire, si prende il governo. Gli italiani, veda, ormai non se ne fregano più niente di questo politichese qua, non se ne fregano più niente. Gli italiani vogliono una persona, ormai sperano in una persona, una volta era Berlusconi, poi Napolitano, poi adesso Renzi, sperano in una persona, perché nei partiti, ormai i partiti c'hanno lo 0,01% di gente che ha fiducia in loro. Quindi sperano che ci sia qualcuno, un'autorità, meno male che non siamo in una situazione tipo anni 20, chissà che cosa succedeva in questa situazione, ma ormai gli italiani sperano che sia qualcuno che riesca a decidere qualcosa. Quindi anche se si è preso il governo, diciamo così, in maniera, qualcuno ma dice, non gliene frega assolutamente niente agli italani. Questi sono discorsi che ci facciamo tra di noi, tra esperti, tra politologi. Agli italiani non gli frega assolutamente nulla di queste cose. Per gli italiani basta che ci sia uno lì che prende delle decisioni, e le porti avanti. Ecco, esatto. Perché lei dice l'Europa? Io infatti ho chiamato Udo Gumpel, che è appunto corrispondente in Italia, giornalista tedesco. Beh, intanto Gumpel, Renzi e la Merkel si conoscono, visto che Renzi andò dalla Merkel. Perché la Merkel, la cancelliera, ha detto fate presto? Qualcuno ha fatto notare che insomma in Germania non avete fatto prestissimo a fare il governo. Ma perché? Qual è l'urgenza di Berlino? L'urgenza di Berlino sono semplicemente le cifre dell'economia italiana. Una crescita dell'ultimo trimestre del 0,1 è totalmente insufficiente e credo che sia stata questa anche la molla per la decisione di Renzi di prendere mano alla situazione. Un governo, chiamiamolo larghe tese, una montagna che ha partorito il topolino dell'abolizione dell'IMU, cambiando semplicemente il nome, che poi io come inquilino adesso faccio la mia parte, pago un MAV, pago un F24, diciamo un governo che si è dimostrato purtroppo completamente inattivo, un governo che non può fare lo zen, aspettare che le cose cambino. Allora la Merkel ha detto fate presto semplicemente per la situazione dell'Italia, non per mettere una critica sui tempi, perché poi la grossa coalizione in Germania effettivamente ci ha messo 2 mesi per firmare, certo, un protocollo di centinaia di pagine. Come l'avete descritto, Renzi? Come viene percepito per esempio in Germania? Cioè questo dinamismo, questa velocità, è un bene, è un male? Come è stata accolta questa, come è stata descritta questa crisi di governo? Ma il problema naturalmente è che non sappiamo esattamente qual è il programma, perché questa è la cosa più importante. Ascoltiamo le tante cose che Renzi dice in diversi dibattiti, delle volte in contraddizione uno con l'altra. Chiaramente imprimere una velocità e anzi cambiare la rotta dell'Italia è quello che tutto il resto dell'Europa del Nord si aspetta, perché non può andare avanti così, questa è la certezza. Però chi lo sa quali sono le resistenze che Renzi deve superare? Io personalmente temo più i compagni nel PD, quei 101, a mettersi di traverso, io non in particolare Civati, perché non credo che conti molto, però quell'umore che serpeggia nel partito, che ha già affossato Prodi, persone che vogliono soprattutto, secondo me, mantenere lo status quo, che sono, adesso dico anche una cosa un po' critica, sono di sicuro contenti di essere subalterni alla destra, che non hanno assolutamente voglia di governare. Voglio ricordare questo ai nostri ascoltatori, il momento del novembre 2011, quando si sarebbe potuto votare immediatamente, il PD all'epoca avrebbe portato una vittoria 10-0, ma per paura di votare, per paura di affrontare i problemi hanno preferito passare la palla nelle mani di Napolitano. Certo, ma questo è un po' il problema, professor Cacciari, ma siamo ancora alle discussioni sulla sinistra che fa fuori i propri leader e quindi adesso toccherà, secondo questa logica perversa, dovrebbe toccare a Renzi? Qui in Italia ragioniamo un po' sulle onde lunghe, facciamo un po' di storia. E qui è successa una cosa davvero straordinaria in questo paese. È successo che la tradizione socialista, socialdemocratica in Italia, in Italia convergente per gran parte con il Partito Comunista e così via, è sparita, si è annullata, si è suicidata completamente. È l'unico paese europeo in cui non c'è una sinistra, a meno che non contare sinistra il 3%, il 4% che va a Vendola, perché si tratta di sopravvissuti. No, non c'è un partito equivalente al Partito Socialdemocratico Tedesco, al Labour, ai socialisti francesi, spagnoli, non c'è, è stata, si sono suicidati. Questi miei ex compagni hanno attraverso errori su errori, catastrofiche mancanze di capacità di rinnovarsi, riformarsi, fare discorsi chiari, subalternità, come diceva giustamente prima il nostro amico, si sono suicidati. E abbiamo una situazione in cui c'è a dirigere un partito che è per gran parte erede di questa storia, Renzi, e c'era al governo Letta. E adesso c'è Renzi sia al governo che nel partito. Quindi non stiamo più a parlare di sinistra, per carità di patria. Cioè siamo al personalismo anche qui. C'è Renzi. Questo è. Sì, c'è Renzi e dobbiamo sperare che Renzi abbia stoffa da statista. Certo che però, professor Gacciari, un paese che si affida a, come dire, all'ultima carta da giocare nella mano di poker, cioè Renzi, come dire, Renzi non sono buone le premesse, perché se quella carta non va bene. Lo sto dicendo da qualche anno che è una crisi di sistema e che andrebbe affrontata come tale. Da forze politiche serie e consapevoli, fare grandi coalizioni, ma grandi, cioè sulla base di consapevolezza che il nostro paese deve rimettere mano agli elementari, cioè riforme istituzionali, riforme che riguardano esecutivo e Parlamento, riforme che riguardano il rapporto tra Stato e amministrazioni locali, riforma radicale del sistema fiscale, del lavoro, cioè siamo in una situazione costituente, lo dico da anni, occorrerebbe mettere mano a una nuova Costituzione, ma non dal punto di vista della carta scritta, dal punto di vista degli equilibri e dei rapporti fondamentali tra le forze politiche e delle culture di queste forze politiche. Quando ho cercato di dare una mano perché nascesse il Partito Democratico, queste erano le idee che circolavano. È stato un fallimento totale a 360 gradi. E adesso dobbiamo affidarci, ci piaccia o no, dobbiamo affidarci a questa persona, Renzi. Sperando che Renzi ce la faccia a livello nazionale, a livello europeo, innescare un circuito virtuoso. Io vorrei chiedere a Udo Gumpel la domanda iniziale: quando Renzi andò da Angela Merkel, allora non era il segretario del partito, ma ci furono anche polemiche per questo giro istituzionale, come è percepito? Cioè, cosa pensa Berlino e come la pensa la cancelliera Angela Merkel di Matteo Renzi? Allora, a me personalmente non l'ha detto, però io posso naturalmente ripetere, riferire ciò che si pensa nell'opinione pubblica. C'è grande attenzione e soprattutto c'è l'attesa che lui faccia quelle famose riforme di cui si parla da tanti anni, a cominciare da Berlusconi, la famosa riforma liberale, una riforma del mercato del lavoro che liberi veramente le possibilità, una riforma anche della tassazione che deve soprattutto alleggerire le tasse sui lavoro dipendente, perché oggi è assolutamente sconveniente creare posti di lavoro in Italia. E allora tante cose che si possono fare, non credo che la Germania si aspetti dei grandi progetti, quelli hanno fatto soprattutto danni, io credo che ha tante cose da aggiustare e soprattutto io spero che Renzi, e che lo si spera molto in Germania, non si faccia illusioni su... cambiamento dei parametri di Maastricht, questo da tanti governi, questo però Gumpel è la domanda che torna continuamente, vuol dire che non esce dai binari. E però questa, Gumpel, è la domanda che volevo, il debito con nuovi debiti è una politica che non trova più amici, e lo so, però Gumpel era proprio la domanda che volevo fare, cioè prima di queste riforme si vocifera già che Renzi voglia andare in Europa e rinegoziare i parametri del 3%, lo sforamento del 3%. Cioè niente non ci farà. Non si farà. E questa è la... È meglio che si tolga le allusioni dalla testa. Ha capito, Cacciari? No, ma lo so benissimo, ha perfettamente ragione Gumpel, è chiaro. Se quello che dicevo prima, se Renzi pensa di andare in Europa e avere l'atteggiamento che ha dentro la direzione del Partito Democratico, crolla nel giro di 6 mesi. È evidente, è evidente. Queste voci che circolano in Italia, non solo Renzi, ma tutti. Adesso andremo in Europa, Letta è debole con l'Europa, Monti era debole con l'Europa, occorre ricontrattare i parametri, tutte queste palle qua. Ah, la Merkel cattiva, i tedeschi, i crucchi che vogliono conquistare il mondo, e se si va avanti con queste puttanate che circolano ovunque in questo paese, è chiaro che non si va da nessuna parte, è pacifico. Quindi speriamo che Renzi, ripeto, che passi dalla inevitabile demagogia del rottamatore, di quello che vuole conquistare. Ecco, vede, il politico sono due facce: una è la virtù che serve per conquistare il potere, e l'altra è la virtù che serve per governare e per far durare lo Stato. Sono due virtù diverse e che bisogna che si combinino nel politico di vocazione, in quello che si dice proprio la vocazione politica, il beruf, direbbe Gump, il politico. Ecco, bisogna vedere se Renzi ha questa capacità, o se è soltanto il rottamatore, il demagogo, abile, abilissimo, cinico, spregiudicato, che ha conquistato il suo partito, ha mandato a casa, cosa mai vista nella storia politica europea, che un partito politico mandi a casa lui esplicitamente, senza nessun tipo neanche di maschera, mandi a casa lui direttamente il proprio rappresentante al governo. Non sarà mai visto nella storia politica europea del dopoguerra. E quindi bisogna vedere se la sua virtù di spregiudicatezza è anche una virtù politica. Certo, sì. Che se comincia chiedendo alla Merkel di cambiare i parametri, comincia male, sarà sommerso da una risata omerica. E tra l'altro, se aggiungo io, se non fa le cose che ha promesso, forse davvero, come dice lui stesso, si brucia e rischia di giocare la più veloce e rapida carriera politica che si sia mai conosciuta. 24 mattino. Eccoci con il professor Massimo Cacciari, con Udo Gumpel, corrispondente dall'Italia per la TV tedesca in TV. Siamo qui a parlare di cosa deve fare anche Matteo Renzi, già ci proiettiamo in Europa, insomma avete sentito sia Cacciari e Gumpel a dire si scordino il 3%, i parametri, i Maastricht, il rapporto deficit PIL da rivedere, si facciano le riforme in Italia, questo chiede l'Europa a Renzi. Vorrei sentire un ascoltatore, Mario da Brescia, che ci ha chiamato. Mario, buongiorno. Buongiorno Milan. Dica. Io volevo soltanto fare una rettifica a cosa diceva prima Cacciari, di fare attenzione all'italiano. Interessa invece chi e come diventa primo ministro. Lui invece sostiene che a noi non interessa. Sì. Invece a noi interessa. Il primo ministro deve essere democraticamente eletto, non... Quindi non le piace questa staffetta, non le piace, mi sembra di capire. Assolutamente no. Lei voleva andare a votare? Assolutamente sì. Va bene, insomma, è che è una legittima richiesta del professor Cacciari. Ha sentito molti italiani, alcuni italiani, alcune forze politiche dicono no, invece... Non, piace. Non è che io dica che mi piace, non mi piace affatto. Dico che la situazione era questa e che la prima dote di uno che si interessa di politica è il realismo. La situazione era questa e doveva finire così, e adesso bisogna guardare avanti, perché certo che è una situazione del tutto anomala, ha ragione il nostro ascoltatore, chiaro, è una ragione anomala, ma è più anomala di così la situazione. È la terza volta che uno va a fare il premier senza elezioni, e questo è vero. Ecco, per esempio Gumpel, questo lo capite all'estero? Ma noi sappiamo cosa dice la Costituzione italiana, e la Costituzione italiana dice che il Presidente del Consiglio viene eletto in Parlamento e non direttamente. Cioè, forse l'ascoltatore esprime un desiderio di una democrazia diversa, non rappresentativa parlamentare, dove come negli Stati Uniti viene eletto direttamente il candidato alla premiership, ma l'Italia ha una Costituzione diversa. Qui viene eletto un Parlamento, il Parlamento sceglie liberamente, poi anche Letta, ricordiamoci bene, Letta non è stato eletto parlamentare con la carica candidato alla premiership, sì. E c'erano altri candidati dico, guardate, in Germania c'erano due candidati, c'era la Merkel e c'era un candidato socialdemocratico, che non è stato vinto da nessuno, allora sa cosa si è detto in Germania? Qui il popolo ha deciso di non dare la maggioranza né a uno né agli altri. Allora la decisione del popolo italiano era di non dare la maggioranza al PD né al PDL. Sì. Allora era chiaro, la volontà del popolo italiano era di costringere i partiti ad un altro tipo di coalizione. In Germania secondo invece me non bisogna vedere i fatti per quel che sono. No, certo, in Germania si è fatta la grossa coalizione. In Italia in teoria si è fatto il governo delle larghe intese, rievocando la grossa coalizione tedesca. E poi, anche se era ben diversa, diciamo, per contenuti, perché noi non abbiamo avuto i problemi che Berlusconi aveva, eccetera, eccetera. Però dall'altra parte uno deve rispettare la volontà del popolo italiano, che ha eletto questo Parlamento senza chiara maggioranza politica. Allora io sono convinto che Renzi è ben consapevole di questo problema, di questo handicap del suo governo, e una delle cose che sicuramente Renzi farà, oltre alle riforme, quel minimo indispensabile, io spero che ci sia tra questi Jobs Act, ovvero la creazione delle condizioni per avere nuovi posti di lavoro in Italia, oltre alle riforme istituzionali. Allora in quel caso lì, appena fatto questo minimo indispensabile, che si torna alle urne. Ah, quindi c'è un governo elettorale, un governo, però, beh, chiaro, come potrebbe essere un governo, diciamo, di Renzi di un anno, si fa la riforma elettorale, si fanno alcune cose. Questo è il concetto sano. Se Renzi è proprio sano di mente, farà questo. Perché è chiaro che una maggioranza che nasce dalla spaccatura del PDL con Alfano, io mi ricordo bene lodo Alfano, cioè Alfano è uno dei massimi responsabili per la palude politica. Se cambia idea, ben venga, quello che è stato detto ieri al congresso era tutto positivo dal mio punto di vista. Certo. Però è chiaro che Renzi è ben consapevole che la cosa non può andare avanti, però deve avere un sistema elettorale che la sera delle elezioni consegni un chiaro vincitore. Chiaro, perché professor Cacciari è proprio è la necessità politica per l'Italia. E vogliamo ricordare Cacciani, professor Cacciari, che era presente politicamente in quei tempi. L'Italia nel 91 ha scelto a votazione maggioritaria referendaria un sistema maggioritario senza preferenze. Sì. Allora, se si deve tornare a dare all'Italia una stabilità governativa, datelo in quel sistema, in quel modo. È l'idea questa? No, ma è chiaro, no? Professor Cacciari, c'è un governo di durata, diciamo, limitata per far dimostrare a Renzi che fa le cose che ha promesso di fare e poi si va a rivotare? Ma cosa vuole? Non è possibile prevedere come si evolverà la situazione. È chiaro che per esempio Alfano ha tutta l'interesse a farlo durare il più possibile questo governo, perché ogni anno che passa è un anno di più sulle spalle di Berlusconi e quindi insomma i giochi si possono riaprire. È difficile, bisogna vedere se si riorganizza in qualche modo l'opposizione interna nel PD, bisogna vedere appunto poi se Renzi è capace di combinare qualcosa oltre che a parlare e a rottamare i cadaveri, perché poi tra l'altro appunto questi ex socialdemocratici comunisti dentro il PD erano tali. Quindi bisogna, è troppo per fare delle previsioni. Sentiamo Gianni da Milano, ci ha chiamato. Gianni, buongiorno. Buongiorno a voi. Io ho una grande stima di entrambi, però volevo mettere in evidenza che le riforme di cui ha bisogno l'Italia sono riforme classicamente di destra. Se ci pensate, sono di destra. Per esempio? Una riforma del lavoro non è possibile, è successo a mia nipote. Lavoro di quelli che vanno di moda, scade il limite entro il quale deve essere lasciata a casa, e da 2 anni che cerca lavoro era stimatissima e l'hanno dovuta lasciare a casa. Ma si può ragionare così? Ma perché lei dice è una riforma di destra? Riforme di destra, mercato perché flessibile la burocrazia del lavoro e tutto il resto non è una riforma di sinistra. È interessante, però questa non sono di sinistra, mettetevelo in testa, sono di sinistra. Gianni, forse di destra, chiamiamole come volete, ma non sono di sinistra. Questa la sinistra pensa agli occupati, non gli interessa che cosa fanno gli occupati, se sono efficienti, se non sono efficienti, se sono produttivi o no, basta un posto di lavoro. Forse è un professor Cacciari, è un'idea di sinistra o è un'idea di vetero sinistra quella di Gianni? Guardi, nel 1982 scrisse un saggio dicendo che queste categorie destra o sinistra non avevano più alcun senso. quindi cosa vuole? Parliamo delle riforme che in Italia sono necessarie per creare quelle condizioni per poter rendere conveniente l'assunzione. Occorre fare che cosa? Occorre, uno, sburocratizzare tutto, perché anche i lacci e lacciuoli di carattere amministrativo, burocratico, stanno soffocando le possibilità di aprire nuove imprese, di dare spazio ai giovani perché sviluppino le loro nuove professionalità, eccetera, eccetera. Quindi, prima di tutto, una formidabile riforma di sburocratizzazione, delegiferazione, testi unici che rendano semplice fare un lavoro, che rendano semplice ristrutturare una casa. Chi ha fatto il sindaco come me lo sa, sono cose pazzesche, Non sono riforme di destra. L'attività legislativa in Italia negli ultimi 30 anni è stata un delirio. Non sono riforme di destra, come dice l'ascoltatore. Seconda cosa, certo, ogni minima risorsa che si riesce ad ottenere attraverso la riduzione dei costi, la riduzione delle spese per l'amministrazione, la riduzione delle spese pubbliche, eccetera, eccetera, ogni minima risorsa per ridurre il cuneo fiscale, per ridurre le tasse sul lavoro. Ecco, questo bisogna che faccia immediatamente Renzi. Questo certamente. Allora, io ringrazio Udo Gumpel, ringrazio Massimo Cacciari. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Grazie davvero per essere stati con noi. Poi riprendiamo con gli ascoltatori, con l'onorevole Simona Bonafè del Partito Democratico, che è già ai nostri microfoni, renziana doc, possiamo presentarla così, tra un attimo. Allora, nel salutare l'onorevole Bonafè, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a lei. Mi lasci sentire un ascoltatore, Romano da Roma, che mi dicono ha chiamato già. Romano, buongiorno, è lei? Buongiorno, è incommensurabile Milan. È Romano quello là. Sono Goldrake, la voce di Actarus, il doppiatore, Malaspina. Il doppiatore. Senta, di Goldrake. Ho notato che lei, da quando Renzi mi ha evocato a Porta, lei mette la musica di Goldrake che cita la barda spaziale. Ora volevo dire. Gliela posso mettere, Romano? Come dice? La posso mettere? Certo. È in sottofondo adesso. Grazie. Grazie a lei, Romano Malaspina. Posso parlare di Letta e Renzi? Certo. Dunque, Letta è un gesuita, Renzi un boy scout. Ma basta con i preti. Io credo che appellandoci invece al dio pagano Wotan, il dio della guerra, usciremo dalla selva oscura. Qui più che alla barda spaziale ci vogliono i lanciafiamme, caro dottor Milan. Non se ne può più, anche da parte di Goldrake. La ringrazio. Grazie a lei. Vabbè, era veramente Romano Malaspina che ci segue, ci ascolta. Onorevole Bonafè, il doppiatore di Goldrake che ci ha chiamato, ma... davvero Renzi non rischia di giocarsi tutto in questo anno, secondo lei? Pensavo mi chiedesse davvero serve il lanciafiamme, insomma. No, lanciafiamme è un po' evocativo, un po' non basta. Vabbè, la barda potrei spaziale. Risponderle così, che io penso che assolutamente serva il lanciafiamme, perché penso che abbiamo di fronte dei problemi che insomma necessitano di un appiglio assolutamente decisionista e di abbandonare definitivamente la politica del cacciavite, insomma, per usare quella di mezzi un po' più un po' più estremi. Ma mi chiedeva se si brucia o non se si dovesse bruciare Renzi o meno. Ma guardi, intanto insomma diciamo che grandi alternative non c'erano di fronte, insomma. Noi abbiamo visto che il governo Letta, che è un governo che era nato in una situazione di emergenza, che era nato con degli obiettivi specifici, che erano quelli di aggredire, di dare una risposta ai problemi dell'economia, ed erano quelli delle riforme, dandosi anche un tempo che era quello dei 18 mesi, ha fatto qualche provvedimento utile, però devo dire non che faceva dopo abbastanza, i primi 10 mesi, non faceva esatto, abbastanza. Si era un po' impantanato. Ed è evidente che una situazione di questo tipo adesso, non poteva permettersela al paese, non potevamo permettercela noi. Gli italiani adesso si chiedono: arriva Renzi, metterà su una squadra di guerra? A proposito, non l'ho vista nel Toto Ministri, non è che poi scopriamo qualche sorpresa? No, guardi, no. Sia tranquillo. Vabbè, dicono tutti così. È da 10 mesi che sono in Parlamento. momento devo ancora imparare a far bene la parlamentare. No, dice stia sereno, Alessandro Mina, stai sereno, hashtag. Esatto. Vabbè. No, la questione è, ma cosa cambia adesso con Renzi? Cioè metterà una squadra di governo? Cioè ha sentito prima Udo Gumpel, per esempio, il corrispondente tedesco, ha detto si scordi Renzi di venire in Europa a dire rinegoziamo il 3%, cioè queste cose, veramente, anche Cacciari ha detto queste sono logiche da boy scout, retoriche che non prenderanno più. Io penso che se noi arrivassimo in Europa con i nostri compiti a casa fatti, perché è chiaro che se andiamo in queste condizioni fa bene l'Europa a non credere, a pensare che l'Italia non sia credibile, ma se noi cominciamo a fare le riforme che servono a questo paese, cominciamo ad arrivare in Europa per esempio con una politica fiscale un po' più decente, per esempio avendo sburocratizzato un po' il sistema, per esempio avendo fatto quelle riforme anche istituzionali che non sono secondarie rispetto ai temi dell'economia, perché parlare oggi di bicameralismo perfetto, peraltro unico stato al mondo ad averlo, significa anche avere delle istituzioni che non sono in grado di rispondere alle esigenze di pragmatismo, alle esigenze di efficienza della politica. Io sono convinta che se noi invece dovessimo arrivare in Europa e dire all'Europa guardate abbiamo messo in cantiere queste riforme, abbiamo messo in cantiere, ma infatti la questione ci saranno dei tempi, certo, per realizzarle, certo. Però io penso che insomma anche l'Europa potrebbe cominciare a dire, ma questo senza dubbio. Però onorevole Bonafè, quello che, ma non è scetticismo, ma quello che si chiedono gli italiani è perché se arriva Renzi si fanno di colpo quelle riforme che devono passare attraverso lo stesso Parlamento che c'era con Letta, lo stesso sistema, cioè sì, perché ho capito adesso la provocazione, però guardi, cioè, a chiedere un cambio di passo radicale è stato sicuramente il PD, ma sono state anche le categorie sociali ed economiche. Cioè lei se lo ricorda che cosa ha detto Squinzi una settimana fa, ma o certo, come è uscita la certo. Camusso? Ecco, allora io penso che ci possa essere anche un, come dire, uno stile diverso in Renzi, no? Dicevo prima, abbandoniamo la politica del cacciavite, ora serve una persona che, che io penso Renzi sia, insomma una persona che prenda in mano i problemi del paese e che li affronti con molta determinazione. Quindi penso che sia una questione anche di stile, di approccio, ecco, lo faccio dire così. Sì, sulla squadra di governo tutti raccontano, almeno i giornali, anche se Renzi pare abbia mandato un sms ai suoi fedelissimi a dire non c'è nessun problema, in realtà insomma queste pastoie romane, soprattutto con il nuovo centrodestra, stanno creando un po' di problemi. È tutto, tra virgolette, presumibilmente riceverà l'incarico ed è tutto pronto, oppure c'è un po' di ritardo? Senta, riceverà l'incarico oggi, aprirà le consultazioni con i partiti, io non starei troppo dietro al tempo perso, se serve per mettere a punto il miglior programma, la miglior squadra, insomma ben venga anche qualche giorno in più. Certo non deve essere tempo in cui si stanno a limare ricatti o compromessi al ribasso, questo mi pare evidente. La sensazione di avere pugnalato il PD che ha fatto fuori l'ennesimo leader e questo potrebbe ritorcersi su Renzi, davvero non c'è all'interno del Partito Democratico. La base, molti della base pensano così, insomma abbiamo fatto fuori brutalmente un nostro leader che era Letta. Ma come le dicevo prima, è chiaro, guardi, Renzi usciva da una consultazione che era quella delle primarie in cui lei sa benissimo il risultato che aveva ottenuto, per cui non c'era nessuna preoccupazione ad andare anche alle urne, e non glielo nego, anch'io avrei preferito la strada della legittimazione popolare, di un'ampia e bella legittimazione popolare con delle elezioni. Non era una strada perseguibile perché abbiamo attualmente una legge elettorale che insomma se dovessimo tornare a votare ci riconsegnerebbe il paese al pantano più totale, e non era una strada perseguibile perché più volte Napolitano ha detto che oggi il problema del voto anticipato non si deve porre. E quindi per uscire dal pantano nel quale ci eravamo infilati serviva appunto un cambio di passo radicale, un cambio di passo del Partito Democratico in una direzione anche insomma anche diciamo brusca, pesante, una direzione travagliata, ha deciso di appunto di voltare pagina. Insomma, la sensazione però è che questa legge elettorale che non si faccia sia un po' un buon pretesto per poi non fare le cose, tipo in questo caso votare. Cioè secondo lei sarebbe stato meglio avere una legittimazione popolare, ma con questa legge elettorale non si può? Con l'attuale legge elettorale, certo. Con quella uscita dalla consulta, insomma è un proporzionale puro che consegnerebbe il paese davvero al pantano più totale, date le condizioni. Io sono perché invece si faccia una bella riforma elettorale, e non solo, sono perché da domani, quindi no, da domani no, ma dal giorno dopo il giuramento, quando sarà in carica il nuovo governo, insomma si parta spediti per portare a casa risultati importanti per il paese. Insomma sentivo anche prima Cacciari parlare di abbattimento del costo del lavoro, magari razionalizzando. Qual è secondo lei la prima riforma che deve fare, la prima, quella anche più fattibile in tempi stretti? Ma ce n'è più di una. Penso che sicuramente il tema principale di questo inizio di governo debba essere concentrato, cioè le prime azioni debbano essere quelle sul lavoro. Noi abbiamo dei dati della disoccupazione in generale, ma in particolare della disoccupazione giovanile, cioè quasi un giovane su due in Italia non ha lavoro, che gridano vendetta, quindi io penso che il lavoro debba essere la priorità, il cosiddetto come rilanciare il lavoro? Lo diceva prima Cacciari, ascoltavo un po' mentre ero collegata con voi, ma sicuramente l'abbattimento del costo del lavoro, mettere più soldi in tasca alle famiglie, rilanciare il consumo, cioè sburocratizzare il sistema. Io guardi, sono rimasta impressionata dai dati che sono usciti recentemente dal centro studi della Confindustria, non so se ha visto, cioè creare le condizioni per avere un meno 1% di sburocratizzazione del paese può portare quasi a un punto percentuale in più di PIL e a quasi lo 0,2% la via impervia, ovviamente in bocca al lupo, perché il bene per l'Italia prima di tutto. Ci fermiamo qui, ringrazio tutti, stasera se volete su 7 Gold torni in TV, mi raccomando, alle 21:10 con Funamboli, state con noi. E invece dopo 24 mattino.